tutta cucendo, Sebbi. Allora, e tu, così che riporto che stai facendo, ah, bello bello. Io Antonello Pomponio, non credevo fossi tu. E come va? Abbastanza bene, non mi posso lamentare, diciamo così, no? E che altro? Io ero oltre... Siamo su altre bande, sto cercando di capire se questo apparato è centrato o no. Perché per centrare tutte le stazioni in USB devo andare a punto 2, tipo, che ne so, 555, punto 2, punto 200, là, già hai capito. Quindi è come se l'apparato fosse in ricezione 200 Hz indietro e devo correggere. In trasmissione non si sa. Tutto da verificare. K. Ma qual è? Un decametrico? No, questo è l'Intec 5005. 5005. E la fermo da parecchio. Infatti solite scariche microfoniche sulla presa PL, disossidato e risolto. Ho visto anche un altro segnale, chi era l'altro? Ma eravate in rotta? No, in realtà no, ho visto solo un segnale 9 e basta. Ehi, anche qua 9. Va bene. Ascolta, la modulazione come Antonio, sto utilizzando l'apparato sopracitato, che poi sarebbe la Nitone 5555, microfono da palmo KPO, il solito, messo al minimo però perché sennò innesca. Mi sta uscendo benissimo, ha voglia, l'ho usato la Nitone, già lo sai. L'ho avuto qualche tempo fa, già lo sai. Cioè non lo so, facciamo finta che lo so, dai. K. Sì, la timbrica sembra addirittura migliore del mic normale, che sembra più gracchiante, almeno il monitor, il poco che ho potuto fare perché mi fischia subito. Dovrei ascoltarmi in cuffie, ma l'adattatore da mono a stereo. Stereo, per sentire entrambe le orecchie l'ho smarrito di nuovo, capito? E quindi lo devo ritrovare o ricomprare per l'ennesima volta. Va bene, che altro dire? Sì, è uguale, come c'avevo il problema io, ho stato un po' tempo fa, è uguale, non è quello il problema, capito? Quindi cioè, deve usare in pratica un attacco di cuffie mono, mettete un paio di cuffie, siccome lì c'è palla ascolta, eccetera, eccetera, e quindi devi usare per fatta quello. Oh, che poi basta un orecchio, basta un orecchio, però se senti entrambe le orecchie viene meglio. Fatti così regolazioni, roba del genere. Se alzi troppo fischi anche in cuffie, già provato. Chiappa chiappa. E caspita, già ne ho parati da far girare. Per esempio ieri, tra sabato e domenica avevo piazzato, poi vabbè non sono entrato perché non... praticamente sto facendo altro. Il Lincoln, no, non il Lincoln, scusa, il President McKinley, quello piccoletto, compatto. È molto carino quello. È che è una maledizione per usare le funzioni, i tasti, ogni tasto ha quattro funzioni, c'è una prassi diversa per ogni funzione, e oia, qua c'è tutti i controlli davanti, è come un 3009 questo. Vabbè, tu lo sai che tanto l'hai avuto. Già lo so, già la voglia che l'ha avuto, già, io sto usando il coso, 340, e poi già lo sai, c'ho il 3009, c'ho anche l'altro, ne ho voglia di apparecchi, la voglia, basta, avanzano, bastano tre, più, c'ho due PMR in giro, uno ce l'ha a coso, li ho prestato, Luca Camera d'Aria, e l'altro ce l'ha Marco Micchi, quindi figura dei due, c'ho tempo di usare tutti gli apparecchi. E io, ho momentaneamente messo via il coso, l'LMS 200, perché per far girare tutte le radio, ora siamo qua, se la lasci ferma guai, la situazione è tribula. Però ricordati, quando lo vuoi è qua, capito, è come se fosse tuo. Lo considero un prestito a lunga scadenza, però se necessità è qua, basta un fischio. No, mi serve, già lo sai, se trovate per usatelo, cazzo, boh, l'ho anche detto, qui, se avevo detto che te lo regalavo, boh, basta, già lo sai che tu, io ho parecchi, mi sei pigliato quell'Alan, 87, figurati tu, e quindi, ma cosa lo so, figurati tu, e se poi ti muore, poi c'è il 2009, ne ho parati, qua sta se purtroppo non ci va con cane, cosa vai a comprare apparecchi nuovi, oi, per carità, l'unica cosa, guarda, quando sarà il momento che c'avevo un po' di soldi, mi compro quegli apparecchi, gli ultimi che sono usciti, che costava 1000 euro, me ne prendo uno e tutti gli altri ce li butto dalla montessa. Ma cosa, tipo SDR lo vuoi prendere? Esatto, c'ha tutto, c'ha l'isolatore di campo, frequenzimetro, eccetera, eccetera, di quelli, boh, basta. Non voglio sapere di altre cose. Ma basta uno, fa tutto, da zero a... hai capito? Alle altre frequenze basta solamente uno, e basta. Non ci voglio tutti questi apparecchi per... come facciamo adesso? Ci voglio due antenne, due apparecchi, un apparecchio e vaffanculo. E c'hai ragione. Va bene. Io poi ancora mi devo sdebitare per il dono. Vabbè. Vediamo cosa c'esce. Volevo quasi ripiazzare antennino il terrazzino per ascoltare, e l'ascolto, perché la predice di Torino che ho qua a fianco, però vorrei mettere un tubo, prima c'era un tubo, un palo, un mozzicone di palo, ce l'ho un palo da un metro, palo all'antenna, ma è troppo largo, pesante, cioè, basta un mozzicone di tubo d'acqua da 50 centimetri, c'è un antennino sul terrazzino, vi banda per ascoltare VU, boh. Ah, mettetelo sopra VU, da cazzo vi banda, giù, non deve fare nulla giù. Usi sopra e vaffanculo, e ascolti come faccio io, ti capisco. Quelli che lavorano a Trattamona, quelli che lavorano a Coso, ascolti tutti e ti diverti. E ci potrei anche parlare. Come faccio io? All'Idro di Trattamona c'è gente, io pensavo che erano qua le piscine, invece sono all'Idro di Trattamona, insomma, hai capito? Adesso stanno raccogliendo, minimo un cazzo, stanno raccogliendo un cazzo, tutti. Mi viene da ridere, col vento che c'è, c'è poca roba da raccogliere in terra. Sì, stamattina a Piazza dei Segni c'era un ventaccio, così, c'era di tutto per terra, foglie, lattine volate via, che da volte sono leggere, però come ha cambiato il tempo, propagazione in logo, oggi nulla, ho provato ad ascoltare su, ieri lo stesso niente, cioè... arrivano proprio voci fantasma da lontanissimo, non fa fare niente. Già lo so, io sono, la verità, due o tre giorni ho sentito la propagazione in PMR, spagnoli, francesi, sul canale 031, cazzo, era una cosa allucinante, ragazzi. Passavano quelli di Trattamona, passavano addirittura, non solo l'altro. Figurati, ma adesso non c'è niente, potrebbe essere muzza, proprio muzza. C'è solamente nuvoloni, vento, ma vento forte in certi punti. Se passi in moto, cazzo, te le butta in terra. Sì, soprattutto se hai il parabrezza di quelli grandi, tipo Vespa, tipo quello che ho io. Naturalmente l'ho tolto perché è estate. Da solo che sia un po' calmato, prima all'ora di pranzo, anche prima le tende qua stavano sbattendo malamente, adesso sono ferme, sembra tutto tranquillo. Ascolta, tu attualmente cosa stai usando adesso? K? Sto usando il 140. Ascolta, ma non è che mi puoi dire in USB di quanto sono spostato, mi bastano le cifre decimali, quante ne hai tu, una o due? Due ne ho. Prova a passare che ti metto un vit e te lo dico subito. Sì, breve, breve, da. Dovevo andare in USB, LCB, dovevo andare. Calma, calma. Sei in AM? Adesso sì, ma ero spostato anch'io in AM, capito? Ho toccato come si chiama, non mi sono andato a costo. Poi ho chiesto dove in USB e l'SB, non mi ha manco risposto, non sapevo manco dove cazzo andare. Dove sei in USB? Proviamo USB. Ok, USB, dai. Sì. di ampiezza. sono in AM, in AM, modulazione di frequenza. Pensa che ti sentivo chiarissimo, tu sei in AM adesso, io ti sentivo chiarissimo in USB, tanto per dartene un'idea. Sì, yeah. Quindi sto facendo girare un po' di apparati, Giulio. Ieri era uno, questo è un altro, così, a rotazione. Se no la roba si sciabideggia. Così, per parlare in locale, visto che propagazione non viene. Ecco qua, io adesso mi sono rimesso a 27.075, giusto? Perché poco si è appunto, concentrati e scusato. Adesso sono a 0.75, perfetto. E purtroppo questi apparati qua, essendo baracchini, ce ne trovi uno che magari è centratissimo anche in banda laterale, no? Che è quella che conta. Centratissimo, no? Di fabbrica, come c'era la scatola. Le certe richiedono di fare o regolazioni interne, che non farò assolutamente, oppure col menu di servizio. Però di questo apparato non mi ricordo se c'era un menu di servizio. Degli altri sì. Dei vari president ci sono, della Linco c'è, la Linco poi è molto simile a questo, quindi immagino che qualcosa ci sia e che devo andare a leggere, a cercare, eccetera. Ok Marco, ma per regolare ci vuole per questi metodo professionale, non uno di quelli che possiamo avere noi, che anche quelli sono passati, ci vuole uno strumento professionale, allora sì, non è che lo puoi toccare così a casaccio, no? A fare le regolazioni nella maniera più assoluta, perché per fare le regolazioni deve toccare le bobine e deve essere uno esperto con uno strumento professionale, capito Marco? No, ma infatti bobine non le tocco. Sai che trucco usavo col 3009? Sto nel 3009. Sì, c'ho il frequentimetro aggiuntivo esterno, però non so se è centrato. Io praticamente con un apparato centravo le stazioni, che ne so, sulla 3,5, no? Cioè il 90% delle stazioni con quella posizione clavifier erano perfettamente centrate. Allora mettevo l'altro apparato e mi autoascoltavo e mi centravo in trasmissione in modo da risultare allineato a questo famoso 90% delle stazioni che arrivano. Più di così non posso fare. Naturalmente era una regolazione esterna dal fine coarse, no, dal coarse, eccetera. E si può fare anche con questo. Ricorda, questo apparato nostro, il clavifier, può funzionare solo in ricezione, oppure solo in trasmissione, oppure in trasmissione e ricezione simultanea, che però macello, perché come vai a centrare gli altri in ricezione ti sposti anche in trasmissione, allora comincia lì un macello. Avrei preferito che fossero due regolazioni indipendenti, come un fine corso, capito? Cioè centrare o solo la trasmissione con un anello e con l'altro pomello la ricezione. Però vabbè, tipo il 3009 vecchio, ecco, l'avrei voluto. Ma ripeto, ci vuole sempre uno strumento professionale, se no fare una regolazione così un po' adattata, però non è mai precisa, secondo me. E intanto quel tipo di frequentimetro che possiamo usare noi così privatamente, quello tu anche senza modulazione, vedi che il QRM stesso ti varia in una maniera impressionante, o in alto o in basso, proprio. Casomai bisognerebbe trovare una giornata di assoluto, ma veramente di assoluto silenzio di rumore di fondo, per poter avere un minimo più di precisione, ma cose rarissime, cose impossibili. Se no devi avere per forza lo strumento professionale, che hanno tutti i filtri adatti per poter eliminare qualsiasi rumore di fondo, qualsiasi interferenza che ci possa essere, e ti dà esclusivamente la frequenza esatta. E io ho visto tanti video, ho visto tutti quanti sono fatte da tecnici e sono tutti strumenti professionali, costosissimi sicuramente, non certamente quei frequenzimetri che costano 70-80 euro, 100 euro che possiamo avere io, tu e tutti quanti, noi CB non servono a niente quindi. Sì, infatti c'è stata una seccatura perché vabbè, finché si in AM, NFM va bene, però in USB alla fine se si è in tanti su un canale bisogna centrare l'uno all'altro, l'uno all'altro, eccetera. Aspetta che mi chiama mamma Giulio, bianco per me. Antonello, riprendi se ci sei. D'accordo, Marco, d'accordo. Grazie, sono qua. Stavo riscorrendo alcune un'ecciata strane, capito? Cazzo, sono pieno e non c'è rimane spazio per niente. Ne avevo messo una, la sparcalità, cazzo. Quindi, l'ho eliminata, cazzo. Mamma mia, sparcalità. Tutto cercando uccelli era. Sì, vabbè. Capito, Antonio? Così, cioè non puoi tu regolare una frequenza così a caso, non sei da niente. Tramite apparato l'apparato, anche se tu per dire è un apparato professionale, non mi potrai mai dare una frequenza perfetta, esatto. Perché tu magari mi centri a me e sembra che anch'io sia centrato in quel momento. Magari tu sei spostato di un millesimo di niente, un cappello, di la manopola essendo a sintonia continua, ecco che lì c'è già la falsa regolazione, non è così, ci vuole lo strumento adatto proprio per fare quelle misure. Allora sì che sei tranquillo, ma che chi ce l'ha? Ce l'hanno i tecnici, i professionisti, quelli che lo usano lo strumento per lavoro, non credo che nessuno di noi, e nemmeno forse qualche radioamatore un pochino inquadrinato se l'avrà comprato uno strumento del genere, ma io penso che siano rarissime le persone che si comprano uno strumento così costoso. Appunto, a meno che uno non sia maniaco della precisione, allora vuoi spendere un sacco di soldi per avere uno strumento del genere. Diversamente che ce lo può avere solo un tecnico e basta. Ebbene, infatti, tutto per quello, il discorso è quello lì. Io spendo 3-4 mila euro per uno strumento, la verità si dice. Quindi, se la può prendere in culo per il baracchino, come faccio? Spendo 6.000 euro per un baracchino una volta ogni moto di pappa, va a far culo. Con 6.000 euro mi compro la macchina, me ne vado in giro e me ne vado a Tartamona, mi faccio le cene, il ristorante, mi vado al ristorante, mi mangio la pizza, quello che è, e se la biglia in culo. Il baracchino che cazzo l'ha fatto? E infatti, già lo credo, è cosa? Uno anche se ha una radio bella, professionale, pagata un sacco di soldi, quella va bene, è già diverso, ma comprarsi uno strumento che costa una barca di soldi per non fare niente, cioè solo per controllarti se la tua stazione è veramente centratissima nelle frequenze, è da pazzi, per me è da pazzi, solo uno strumento del genere lo utilizza che fa la professione di radiotecnico, allora sì, ne ha necessità se vuole essere un tecnico un perfetto e bravo, ma diversamente tanti tecnici lo stesso, dato il costo di certi strumenti, non sono tutti che ce l'hanno, anche loro fanno così a caso, ad occhio o a orecchio, cosa vuoi, ce ne sono tanti. Oppure con uno strumentino, quelli da pochi soldi che magari possiamo avere tutti. Ci vuole, intanto è grande più di una radio, io parlo di una radio professionale, lo strumento che segna, che ti fa vedere le frequenze, è più grande di una radio, tanto per dare l'idea. E poi ha anche altre soluzioni, altre misurazioni che si devono fare in tandem con quello che stai vedendo, capito? Sì, tratto. Infatti non è stato più nessuno di così, sta tranquilla. Oramai l'era del tecnico è finita. Tra poco spariranno anche quelli che riparano televisori, te lo dico io, quindi quando ti pigli il televisore si guasta, compri la scheda, gliela piazzi e va fanculo. Non ne ripari più, capito? Ormai siamo a quei livelli, cosa spendi? 15.000 euro per che cosa? Per cambiare un transistor, un diodo che costa neanche 50 centesimi. Ti prendi la scheda nuova, se il padrone vuole, se la cambia, se non vuole, c'è il cassonetto, la bombetta e ti dà per tutto e si compra il televisore nuovo, discorso economico. Perché ormai siamo arrivati a quelli veri, siamo come la Corsica, fare uguale, anche per i baracchini. Capito? Vai, pezzi non ce ne sono più, quindi a un certo punto non si ripara più nulla. Quando c'è il baracchino non riparati, prendi, non fai pegliare altro che il cassoletto e poi ci butti di come si chiama. Il baracchino nel cassonetto e te ne prendi uno nuovo. Come se stiamo facendo così anche con i cellulari adesso. Prima non li buttavano, adesso ce li buttano nel cassonetto i cellulari, tanto per quello che costano. Costano una gazzata, vedi uno e te ne prendi un altro, eccetera, eccetera, quindi va bene così. Ah, ce la fai andare a cazzo da un tecnico, a sistemare un vetro, un coso, a spendere tanto aereo, non esiste, no. Prendo il telefono, mi prendo il cassonetto che trovo, te lo lampo dentro, chi lo trova se lo sistema, fa quello che vuole e si arrangia. Ok, vabbè, dai. Comunque, ognuno la pensa a modo suo, che problemi ci sono. Lasciamoli fare, anzi facciamo tutto quello che ci viene in mente, così siamo più tranquilli e lasciamo perdere certe cose, così a noi tutto sommato poco interessano. Però voglio dire, se c'è uno che vuole cercare la precisione, se non si è attrezzato, non c'è niente da fare, non ce la puoi avere la precisione. Anzi, ti dirò di più, tu magari regoli una radio, un apparato, proprio in questo momento, lo accendi, cioè lo lasci funzionante per un po' scaldare bene, lo ricontri, lo ricontrolli, e ci può essere differenza, perché in quel momento tutti i componenti hanno scaldato e ti può portare in cavaliazione. E allora a quel punto cosa fai? Devi andare alla ricerca dei componenti che vanno in avaria, perché tutto sommato evidentemente c'è qualche componente in quel caso lì che va in avaria, se no non deve cambiare la regolazione, né adesso e né fra un'ora per dire che l'apparecchio è acceso. È una parola, non è tanto semplice. Ho sentito tanti anche dei video, dei tecnici vedendo dei video al computer, cioè 5 dice non è niente, è una cosa così che passabile un corno, o la precisione o c'è o non c'è, e il discorso è questo, Antonio. Beh, già lo sai che gli apparecchi c'è, non ti devi accenderli. La tensione a freddo è una cosa, la tensione a caldo si stabilizza e l'apparecchio è basso, questo lo sanno tutti, anche gli asini lo sanno, sempre questo. Come si fa anche, si faceva anche nei trasmettitori FM, bisogna aspettare che l'apparecchio scaldasse un pochettino in modo da dare la frequenza giusta, se no la frequenza a freddo i finali ti davano, cioè a parte meno watt, poi c'era lo spostamento del qua, cioè di pochi chilo dentro del quarto finché non si stabilizzava, capito? Tutto lì, ma quello è disappunto. Avanti Marco. Sì, Allora, cosa volevo raccontare a Giulio? Una volta avevo provato a fare quel sistema che ti ho detto, no? Con un baracchino, bello caldo, sabile, tutto centrale le stazioni, no? Poi mi sono autoascoltato in cuffie, mi sono centrato in trasmissione col menu di servizio, con uno dei vari apparati di cui non ricordo, cioè non ricordo più qual è, se era il President o la Link o qual era. Ho usato quel metodo che ti ho detto prima e praticamente ho ottenuto una centratura pressoché perfetta in USB, a me interessava solo l'USB, l'LSB non mi interessa. E la riprova l'avevo fatta all'epoca con, mi pare, Gianfranco Radioamatore, no? Che ogni tanto entrava a salutare sul 10, e con quegli apparati che ha lui, quindi più che professionali, e la centratura era pressoché perfetta, cioè non doveva toccare nulla, capito? Però ripeto, vatti a ricordare quale apparato era, quale dei vari era, con il menu di servizio. Tu hai questi numeretti, no, che sembrano senza senso, tu lo muovi appena, che ne so, da 147 metti 148 e ti sposta, che ne so, tipo 10 Hz alla volta, una cosa del genere, finché ero riuscito ad avere una centratura ottima. E vabbè, è solo che è una rottura di scatole mi da fare. E poi i risultati, te l'ho detto, anche chi ascolta magari non è centrato in ricezione ti dice che sei fuori comunque, magari tu sei perfetto. E appunto ci vuole strumentazione professionale, ma professionale davvero, per fare un lavoro certosino. E poi non ne vale la candela, per i barchini non ne vale la candela. Vai Giulio. Ok, ma in effetti è così. Sì, quando io ti dico sei centrato, è una valutazione che ci ho dato io col mio orecchio, ma non è certo una valutazione seria. La valutazione seria te la danno gli strumenti professionali, quelli che costano 10.000 volte più del baracchino o di una radio professionale. E il discorso è sempre quello. Sì, ti dicono, basta, lascialo così, sei centrato. Primo, l'hai già detto tu, l'hai già anticipato tu, tu mi hai regolato su di me, tu ti sei regolato su di me e mi senti bene. Adesso allora in quel caso lì io sono centrato. Ma dai, è una regolazione fatta così all'orecchio, che può anche andare bene, ma va bene per l'udito, ma non certamente per la qualità tecnica. Stai dentro subito io. Eccetera. Ci vuole un sì. Non c'è niente da fare. Il discorso è sempre quello. E va bene, avanti Antonio. Antonello si è assentato un attimo, ha detto che torna subito. Per questo discorso della centratura, sì, è relativo, cioè io ti centro, importante però anche avere la volontà di farlo, no? Perché in propagazione era capitato una volta o due, no? E di solito diciamo che sono tutti ben disposti quando fanno di extra a collegare una persona, se un po' fuori la centra. Poi invece è capitato, qualcuno dice sei, non sei centrato, e io gli ho detto, ma scusa, ti sto chiamando, muovi un attimo il VFO, il clarifier, quello che è, centrami un attimo, ti do il rapporto segnale, capito? Certi ti vogliono, probabilmente hanno apparati amatoriali, ti vogliono perfettamente sullo 0.0, capito? Un po' scortese mi è sembrato. Sì, ma è così, quello sì, però è sempre una valutazione così dell'occhio umano o dell'orecchio umano. È normale, questo sì, io per dire ti sento e vedo che il mio, per dire, frequenzimetro della radio mi sta dando un Hz in più o un Hz in meno, che so io, o un 0,5 o quello che sarà, e ti dico sì, è per il forzato, ma è sempre una valutazione così, fatta a caso, prima di tutto perché devo sapere se è il mio strumento della radio è perfetto, primo. Io ti ho centrato e ti sento perfettamente, però se mi sposto di un Hz ti sento lo stesso, perfettamente, no? Non si che che valutazione posso dare di massima precisione? Così è una precisione molto ma molto relativa, tanto per dire ci sento bene, basta, a me mi piace così e so se ti ascolto in quel modo vuol dire per me sei centratissimo. Però il discorso è sempre quello, la precisione assoluta non c'è. No, a meno che proprio non hai apparecchiature per tarare Rode Schwarz, strumentazione dal costo folle, come hai detto tu prima, mamma di turchi, va bene, ok, avevo anche staccato, adesso sono quattro, penso siano quattro, va bene, vediamo Antonello se è rientrato. Guarda Marco, la prova ce la dà anche una semplice radiolina commerciale, quella è un transistorino. Tu tiri fuori l'antenna del transistorino, accendi la radio e ascolti. Magari ci passi vicino e senti uno spostamento dell'onda. Eppure tu stai sentendo la radio, magari sei lontano e stai sentendo la radio in maniera perfetta. Perché? Perché l'orecchio umano tuo ti percepisce una buona ricezione. Ma in realtà non è centratissima quella stazione che stai ascoltando. Questa, vedi, questa adesso è una prova, diciamo così, un pochino banale, sì, d'accordo, tutto quello che vuoi. Però è anche significativa, no? Pensando a cosa vuol dire lo spostamento di onda. E secondo me anche quello ci dà un'impronta di come può funzionare, come possono funzionare le onde elettromagnetiche. Ti è mai capitato tu che ci passi vicino e senti mancare la trasmissione o addirittura si aumenta? A me mi è capitato tante volte in questa radiolina così. Oh Marco, per me quella è anche una prova di quello che è, degli effetti della radiofrequenza. Sì, un po' anche con le immagini televisive, magari te ne rendevi molto conto, no? E quando all'epoca usavo televisorini in macchina, roba del genere, quando c'era l'analogico, in base, anche se passavi in prossimità di tipo Monte Oro, roba del genere, vedevi sempre l'immagine, c'era qualcosa di imperfetto, magari non so se fosse saturazione, però c'era sempre qualcosa che variava, non era costante la cosa. Poi vabbè, siamo passati al digitale, a me non mi scompifera poi tanto il digitale terrestre. Prima magari il cale non lo vedevi perfetto, però lo vedi, adesso il segnale o c'è o non c'è, o lo vedi bene o parte o va tutto squarrettato, che palle, guarda. Poi me ne frego che abbiano messo centinaia di canali di cui la metà sono di televendite, di porcherie, oppure trasmettono addirittura videocassette anni 80 con una qualità terrificante, cioè il canale magari è in HD, no? E poi ti trasmettono videocassette anni 80 completamente sfumate, non so se hai notato, tipo vecchi documentari, è quel canale che guardava mamma dei viaggi, aspetta com'era, faceva vedere posti belli. Cioè, tu vedevi un canale HD e ti trasmetteva roba a bassissima definizione, ma sembrava addirittura in pixel, sarebbero tipo 320x240, una cosa allucinante. Molti troppi canali televendite, così amenità varie, non lo so, io alla fine sto sempre sui canali di film, Giulio. Cioè dall'1 al 49 mi pare. Tutto il resto non lo guardo proprio, non vado oltre. Sì, beh, anche perché magari sono dei programmi registrati chissà quanti anni fa, con una tecnica sicuramente inferiore a quella che magari oggi si può registrare. E poi c'è anche il discorso di invecchiamento della pellicola, che chissà quante volte è stata proiettata, ed ecco che vedi delle immagini magari sfocate, vedi magari una parte sfocata, l'altra parte no, ma è così, ma succede un po' dappertutto, anche nelle radiocassette antiche, le musicassette eccetera, tu metti una canzone per dire, inizialmente si può sembrare un pochino scarsa, poi man mano che gira la cassetta può diventare una voce più bella, più chiara, o viceversa, prima la senti bene, poi va andando e affievolendosi, perché quello è dovuto al consumo del materiale appunto che ha quella registrazione, è così. Oggi purtroppo i programmi televisivi, tu hai notato che non fanno altro che ripetere continuamente gli stessi programmi. Le televisioni private oggi sembrano che siano delle aziende molto ricche, forse ce n'è una, due, tre aziende molto ricche, tipo come può essere quella di Mediaset, ma tutte le altre hanno una televisione così, alla quale rose, cosa, tipo che so io, ad esempio, io ne cito una a caso, la televisione sassarese, quella 1-4, quella ti dà il telegiornale di due giorni prima, ma dico io, ma non è, questo non è modo di fare televisione, però anche loro giustamente devono vivere, e se hanno appreso l'attività televisiva è perché devono vivere, è un lavoro che a loro interessa per poter vivere e andare avanti, Marco. Guarda, io non, per esempio quei canali, vabbè, li salto, io ero rimasto a Sassari Antenna 1, qual era l'altra emittente? Porca miseria, mi sfugge. Antenna 1, di Sassari, quando c'era l'analogico c'erano quelle, poi col digitale, boh, ce ne sono 10.000, qual era l'altra, Giulio? Telefele. No, più, aspetta, Antenna 1, mannaggia la miseria, vabbè, no, Nuova Telettere addirittura, ma Nuova Telettere qual era, quella, no, già ho capito, no, stavo pensando a Teleobiettivo Sardegna, ti ricordi quelle che trasmetteva in VHF bassa e l'antenna per riceva era un antennone? Sì, che sembrava una direttiva, sembrava della 27, quasi, come dimensioni di antenna, sì, me la ricordo, a Sassari c'era la sua moto d'asello alto, era nella zona di via Castiglia, in quella zona lì era la sede da dove trasmettevano, io c'ero andato anche una volta lì, che c'era un amico che ci lavorava, per cui avevo visto qualcosina, ma era una piccola trasmissione da niente, cosa, però ognuno chiaramente in base alle proprie possibilità crea una stazione e manda le immagini che può, d'altronde così, lo sappiamo, no? Ah, ce ne sono tante, ad esempio prendiamo lui con l'altra trasmissione che è sempre canzoni sarde, sempre in sardo, sempre in sardo, continuamente, che è la seconda rete, penso che sia sempre di Vigliolina, il proprietario credo che sia sempre di Vigliolina, sul canale 12, quello 24 ore su 24, sempre cose in sardo, cantanti sardi, per cui non fa mai programmi, e hanno queste cassette, mettono quelle e secondo loro stanno facendo un programma, in effetti è un programma, però è un programma per modo da dire, no, non è che sia una grande televisione, sì, ci sono quelle persone che sono appassionate del canto sardo, della cultura sarda e la seguono anche, certo, tante volte la seguo anch'io, per dire, però non la posso considerare una televisione, è una piccola televisione locale, così fatta in casa, io la chiamo così, una televisione fatta in casa. Credo fosse Tele G, mi pare, all'epoca, quando c'era ancora l'analogico, o forse era già passato il digitale, antenna 1 e TRG, le due. Le altre mi pare, una è di Alghero, poi c'è Gallura Channel, insomma tutta roba minore, non, vabbè, quelle non le guardo. Rai Storia, quelle cose di interesse, Focus, quello che è, insomma, vabbè, però su quei canali molto alti non vado, te l'ho detto, troppe televendite, o magari sport non ne seguo nemmeno, roba di moto, di macchine, di cose. Vediamo se è entrato Antonello. Niente, Antonello ce lo siamo giocato. Ecco qua, sto usando il KPO, Giulio, il microfono KPO da Palmo. E l'ho dovuto mettere al minimissimo perché se non mi innesco con questa radio, perché sono troppo vicino alla radio. E d'altronde, vabbè, il posto è questo. Va benissimo, Marco. È un microfono che va benissimo, è abbastanza chiaro. Non ha problemi di nessun genere. Per cui io ti sento molto, molto bene. Ma solitamente io ti sento sempre bene. Qualsiasi microfono che usi o qualsiasi baracchino che tu usi, io ti ho sempre sentito bene, perciò non c'è problema, se no te l'avrei anche detto. Se un giorno ti sentirò male, te lo dirò senza dubbio, non è che sono lì a pensarci due volte, tanto non è che offendi nessuno. Quando tu a una persona dice guarda che non stai uscendo bene, non stai offendendo nessuno, stai semplicemente avvisando che deve fare una correzione, tutto lì. Sì, giusto, infatti uno lo dice per far migliorare la persona, non per criticare. Magari qualcuno la vede in modo diverso, boh. Più di uno magari si offende anche, si mettono anche a voce tante volte, più di una volta li ho sentiti. Ma cosa stai dicendo? Guarda che sto usando boom boom boom boom, una serie di cose, di stupidaggini, dietro uno dietro l'altro, solo perché lui magari sta usando, che so io, una radio di una certa levatura a livello di costo di denaro. Questo non vuol dire niente, eppure non accettano, e se non accettano pazienza, questo ne frega, niente di particolare, tanto non hai offeso nessuno e certe cose si possono anche dire. Poi ritornando al discorso televisione, io avevo la fotografia della antenna di televisione Catalan, quella televisione credo sia algherese, una televisione algherese, ed è una semplice macchina, una normalissima macchina, tu devi vedere l'impianto di antenna che ha sopra l'imperiale della macchina, una cosa madornale, grandissima. Solo da quello si vede che la televisione è una televisione di poveri, per così dire, tra virgolette. Perché se no avrebbero avuto una macchina adeguata e attrezzata appunto per la televisione, per fare le riprese che si devono fare, eccetera, eccetera. Invece è una semplicissima macchina che se trovo la fotografia, io ce l'avevo fino a qualche giorno fa, forse ce l'ho nel tablet ancora, se trovo la fotografia ce la spedirò via WhatsApp, però adesso in questo momento non posso perché il tablet ce l'ho giù, per tanto non posso inviarla, ma dopo che abbiamo finito di chiacchierare, se c'è ancora te la mando. Ok, cioè, però vabbè, dalla macchina non sarà un mezzo secondario di servizio, e se no come fanno a collegarsi anche al ripetitore per Sassari, no? Boh, comunque tutto è fattibile, vabbè, qua non ne parliamo. C'era un progettino poi accantonato, da. Ok, ma per dirti, no? Com'è la storia? Poi ognuno si arrangia con i propri mesi, ovviamente, e con quello che ha. Se uno non ce la fa, non ce la fa e basta. Ma questo non significa che non debba lavorare. Deve lavorare ugualmente, o meglio, ha diritto di lavorare ugualmente. Uno ha deciso di intraprendere quell'attività, è giusto che la faccia, ci mancherebbe, è un lavoro come un altro, no? No, certo, ci mancherebbe. Antonello, ci sei? Sei rientrato? Sì, io stavo controllando a vedere quanto mi era rimasto nella carta. Meglio non saperlo? Da 500 è sembrato 158. Allora sei ricco, meglio che lasciamo perdere, meglio non pensarci. Antonello, cosa ti volevo dire? Mi stavo parlando di... che Giulio ha detto che ha visto un emittente algherese TV e dovrebbe trasmettere da una specie di macchina o di furgone, cioè c'è l'antenna sopra lì e quella è una cosa che io avrei voluto testare col famoso trasmettitorino FM, ti ricordi? Dalle parti, da zone alte, con antenna da macchina tarata la frequenza apposita, sempre roba da usare per prove, test, niente di, lo sai come, no? Ah, poi ho visto che da AliExpress non solo c'è il trasmettitore FM, quello che conosci tu, ma c'è l'equivalente trasmettitore audio-video, c'è un trasmettitore TV analogico, c'ha una forma simile, tu gli attacchi l'audio e il video, c'ha 2 watt di potenza massimo regolabile e con antenna tarata praticamente sto trasmettendo in analogico in TV, però devi avere un punto elevato, tanto sai che le antenne in TV sono tutte puntate da una parte, quindi dovresti essere in direzione del ripetitore di Monte Oro, un po' per far arrivare il segnale a qualcuno, però interessante, non sapevo quello. Allora, va bene, lo sai perché? Perché in pratica se la pietra c'è tutto, dico la pietra dentro la camera da letto, io tranquillamente a casa mi guardo il video, mi guardo di quella, quando batte. Ecco, a quello pensi, Uia. No, perché in certi luoghi hanno capito se Stati Uniti, poi vabbè, limitatamente ai regolamenti FCC che sono abbastanza restrittivi a quanto ho capito. Vabbè, mettiamo che sia Stati Uniti o alcuni stati degli Stati Uniti, fanno anche radio di quartiere, forse anche emittenti TV di quartiere, roba proprio che ti fa poche centinaia di metri, un chilometro, non so quanto possa coprire. Se ne parlava anche per la radio AM, siccome la radio